Mezzogiorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Un quarto degli italiani vive in una condizione di disagio economico, scrive l'Istat nel rapporto Noi Italia. Pressione fiscale a livelli svedesi, ultimi in Europa per competitività di costo delle imprese. Blitz della polizia e dell'FBI contro l'andrangheta. A New York arrestati anche uomini dei Gambino. In Calabria il boss di Gioiosa Ionica. Attaccata, insultata e derisa sul social network Ask FM. Si toglie la vita una ragazza di 14 anni a Padova. Tra poco sentiremo il garante dei minori che oggi ha presentato un'iniziativa contro il bullismo online. Come previsto, è stato bocciato l'impeachment del Movimento 5 Stelle. Renzi dice PD leale al governo, ma la batteria della legislatura è scarica. Cambiarla o ricaricarla? 10 giorni dal diluvio e a Roma le cose sono cambiate poco. Traffico ancora in tilt nella parte nord della capitale. In Toscana, a Volterra, altre due frane stamattina. È morta ad 85 anni Shirley Temple. Da bambina fu la Riccioli d'Oro del cinema anni 30. Da adulta politica e ambasciatrice degli Stati Uniti all'ONU, in Ghana e in Cecoslovacchia. Venerdì sono 10 anni dalla morte di Marco Pantani. Per alcuni resta un mito, per altri simbolo del ciclismo del doping. Intervista al professor Donati, consulente dell'Agenzia Mondiale che combatte il fenomeno. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti che apriamo con una notizia appunto appena battuta dalle agenzie. L'Unione Europea non prevede di proseguire il negoziato con la Svizzera sull'elettricità alla luce della nuova situazione che si è venuta a creare dopo il voto sul referendum sulla libera circolazione delle persone, che è una potenziale violazione degli accordi, lo ha detto la portavoce dell'esecutivo europeo Pia Haren-Kilde. Quando avremo altri aggiornamenti su questa vicenda ve li daremo. In apertura parliamo dei dati diffusi dall'Istat questa mattina. È l'ultima fotografia del paese, quella scattata dall'Istat nel suo rapporto Noi Italia. L'indagine certifica innanzitutto l'aumento della pressione fiscale che continua a crescere sfiorando i livelli svedesi. Nel 2012 ha raggiunto il 44,1% a fronte del 44,7% della Svezia, dove però il peso delle tasse negli ultimi anni ha registrato un deciso calo. Nello stesso anno il PIL pro capite degli italiani è diminuito del 2,8% in termini reali, volando al di sotto della media dei paesi dell'Unione Europea. Secondo l'Istat, poi, quasi 5 milioni di italiani si trovano in condizioni di povertà assoluta. 6 famiglie su 10 vivono con meno di 2.500 euro al mese e una famiglia su 4 si trova in una situazione definita di deprivazione, a cioè almeno 3 dei 9 indici di disagio economico non è in grado, ad esempio, di sostenere spese impreviste o di fare un pasto proteico ogni 2 giorni. Nonostante le difficoltà economiche, il nostro paese si conferma comunque uno dei più motorizzati in Europa, con 62 auto ogni 100 abitanti. In questa classifica l'Italia è seconda soltanto a Lussemburgo. Cala però fortunatamente il numero dei morti su strada. Fra il 2002 e il 2012 si sono quasi dimezzati, passando da 6.980 a 3.653. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Abbiamo sentito che tra gli altri dati diffusi dall'Istat si parla di un'Italia fanalino di coda in Europa per competitività di costo delle imprese. Ogni 100 euro di costo del lavoro, il valore aggiunto si attestava nel 2010, ultimo anno di confronto con l'Europa, al 126,1%. Dato peggiore in Europa, appunto, contro il 211,7%, per esempio, della Romania. A pesare sulle imprese ci sono tanti elementi, tra questi, lo raccontiamo molte volte, la burocrazia. Oggi c'è una bella storia, bella si fa per dire, naturalmente raccontata al Sole 24 Ore, la racconta Ilaria Vesentini, collega del quotidiano che saluto. Buongiorno Ilaria. Ciao Simone, buongiorno a tutti. Allora, la vicenda è la storia del Conca, che è un'azienda che produce sostanzialmente ceramiche, e la storia di due impianti paralleli, per così dire, no? L'espansione della sua sede centrale e invece l'apertura di uno stabilimento negli Stati Uniti. Ci dai la differenza tra le due cose, anche in termini di tempi? Allora, espansione della sede centrale del quartier generale che è nel Riminese San Clemente, che in realtà è rimasta sulla carta perché è 10 anni che aspettano una variante al piano regolatore che non arriva. Nel frattempo sono passati 2 cicli economici disastrosi per il settore della ceramica, che ha quasi dimezzato la produzione in Italia nel frattempo, e comunque nel frattempo 10 anni in cui assolutamente non è successo nulla. In 10 mesi esatti di cantieri, un annetto circa, perché Del Conca ha comprato negli Stati Uniti un terreno terreno alla fine di dicembre, hanno iniziato i lavori nell'aprile del 2013, ieri hanno avviato la produzione. E appunto il confronto lascia allibiti. Naturalmente è impietoso, ma come mai si sono bloccati i lavori dal lato del quartier generale? Cioè hanno richiesto l'autorizzazione e poi nulla. Non si poteva fare l'ampliamento se non si approvava una variante al piano regolatore. Su questa variante stanno ancora discutendo. Ne parlavo anche ieri con il presidente della società, e tra l'altro appunto diceva: mi sembra che qualcosa si smuova, non vorrei appunto parlare male, tanto appunto che ha chiesto di non ritornare, di non insistere troppo sul tema. Lì è appunto il sistema Italia, per cui per mettere d'accordo due o tre amministratori su appunto una modifica normativa non ci si arriva. Nel frattempo il gruppo del Conca però ha fatto tutte le opere di compensazione a San Clemente di Rimini per compensare la collettività del futuro cemento, che in realtà non è mai arrivato. Che in realtà non è mai arrivato. Va bene, grazie Ilaria Vesentini. Tutti i dettagli li trovate sul Sole 24 Ore oggi in edicola. È una bella, ripeto, bella si fa per dire storia, perché è un buono specchio di quello che succede alle imprese in Italia. Parliamo adesso di criminalità organizzata, perché oggi c'è stata un'operazione di polizia che per certi aspetti sembra un film. Monica Ceravolo, buongiorno. Sì, buongiorno, sembra un film a partire dal blitz che è scattato all'alba di oggi, contemporaneamente negli stessi istanti, così era stato concordato, sia in Italia che negli Stati Uniti, per mettere fine a un narcotraffico internazionale. Mentre albeggiava, appunto, sono stati arrestati nella Grande Mela Frank Lupoi e Raffaele Valente, considerati punto di raccordo tra le cosche calabresi e gli esponenti della potente famiglia mafiosa De Gambino di New York. In Italia invece è stato fermato Nick Tamburello, espulso dagli Stati Uniti un anno fa perché indesiderato, e riparato in Calabria. In manette anche Francesco Orsino, considerato il capocosca dell'omonimo clan di 'Ndrangheta di Gioiosa Ionica. Le due organizzazioni, quella calabrese che tra l'altro era coadiuvata da un gruppo di campani finiti in manette, assieme con Cosa Nostra Americana, avevano messo su un imponente narcotraffico internazionale, un import-export di cocaina ed eroina che passava dal porto di Gioia Tauro. Sono stati fermati da un'indagine congiunta della polizia italiana assieme con l'FBI, che lavoravano su questa operazione da 2 anni. Oggi sono state arrestate in tutto 24 persone, 17 da noi, uno è ancora ricercato, altri 7 invece sono stati catturati a New York. E per me è tutto, io vi lascio con le parole di William Nardini, che è un magistrato del Dipartimento della Giustizia americana. Allora, ti ringraziamo Monica per questo collegamento. Non abbiamo ancora il file, vedremo se saremo in grado di farlo sentire durante effetto giorno nelle edizioni del giornale radio. Invece adesso noi vogliamo venire su una vicenda che arriva da Cittadella, siamo in provincia di Padova. Una ragazza di 14 anni che ha ricevuto una serie di insulti su un social network molto usato dai teenagers, che è Ask FM, e si è tolta la vita. È avvenuto nei giorni scorsi, si è lanciata dal tetto di un albergo. Allora saluto Stefania Pizzolla dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, dai. Tra l'altro voi avete presentato, e ne parleremo tra un attimo, una nuova iniziativa contro il cosiddetto cyberbullismo. Le chiederei un commento su questa vicenda terribile. Allora sì, ovviamente i fatti sono ancora tutti da accertare, ma nell'ipotesi in cui ci sia stato un'esposizione ad insulti da parte di queste nuove piattaforme, sicuramente c'è da dire che al momento ci sono alcune piattaforme che non sono ancora particolarmente sicure, soprattutto perché si possono postare informazioni, commenti nell'assoluto anonimato, e quindi questo impedisce anche poi dopo una efficace e veloce azione investigativa. E quindi Pizzolla, il problema è l'anonimato, secondo lei? Sicuramente in parte l'anonimato, che permette una maggiore disinibizione nel commentare. L'altro elemento comunque è sicuramente la solitudine dei ragazzi che in queste situazioni non hanno gli strumenti per poter reagire e per poter fare affidamento su di adulti ma anche di pari, che potrebbe invece aiutarli a contrastare, diciamo, la difficoltà terribile, la tragicità del momento che stanno vivendo. Pizzolla, sì. Che cosa avete presentato oggi contro il cosiddetto cyberbullismo? Le chiedo di essere breve. Sì, assolutamente. Allora, oggi è il Cyber Internet Day, la giornata che a livello europeo sottolinea il problema, appunto, un utilizzo della rete sicuro ma anche responsabile da parte dei ragazzi. Ci sono due iniziative, una fatta in rete con il Ministero dell'Istruzione e all'interno di un progetto molto importante, e c'è la possibilità per i ragazzi di raccontare le loro storie attraverso un sito, lanciando dei loro messaggi se mi posti ti cancello. Per quanto riguarda invece le iniziative del Garante, abbiamo lanciato ieri un hashtag, Facciamo Rete, che attraverso anche la presenza di personaggi come Credi, Albano, Cristiano Imparato, Valentina Colombo, sensibilizzano i ragazzi ad un utilizzo positivo della rete. La rete è un luogo di grandissime potenzialità, bisogna conoscerla e muoversi con consapevolezza. Grazie Pizzolla. Dunque, se siete su Twitter, l'hashtag è Facciamo Rete. Grazie per averci raccontato tutto questo. Noi passiamo alla politica adesso, iniziando dalla legge elettorale. Brevemente, Elisabetta Fiorito, buongiorno. Buongiorno. I destini della legge elettorale si incrociano con quelli del governo. Dopo il lungo colloquio al Quirinale tra il capo dello Stato Giorgio Napolitano e il segretario PD Matteo Renzi, non si esclude più un avvicendamento a Palazzo Chigi con Enrico Letta. Se la batteria del governo è scarica, dice Renzi, decidiamo se va ricaricata o cambiata per spingere le riforme. Poi il segretario PD anticipa la direzione del partito a giovedì, e la domanda posta da Renzi ai deputati sarebbe stata se il governo così com'è aiuta le riforme oppure no, perché vuole specificare il sindaco fiorentino, è falso che il PD freni il governo. Intanto l'iter parlamentare della legge elettorale non ancora ben delineato, le opposizioni chiedono uno slittamento del dibattito in aula, la conferenza dei capigruppo di Montecitorio è convocata tra un'ora per decidere, al momento l'approdo del testo è atteso oggi pomeriggio nell'aula di Montecitorio, mentre ricordiamo che il comitato ristretto della Commissione Affari Costituzionali ha approvato i 3 emendamenti del relatore Francesco Paolo Sisto, che recepì le nuove soglie del 37% per le coalizioni e del 4,5% per i partiti, accolto anche il meccanismo di assegnazione dei seggi nei collegi. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Come probabilmente ampiamente previsto, l'ipotesi di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica voluta dal Movimento 5 Stelle non passa, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, è così, è passata infatti la proposta per l'archiviazione presentata dal Partito Democratico con 28 voti favorevoli, 8 contrari, tutti del Movimento 5 Stelle. Non ha partecipato alle votazioni Forza Italia a presiedere il Comitato Ignazio La Russa, che al termine ha spiegato che la richiesta di impeachment è stata rigettata per manifesta infondatezza. Prima che l'archiviazione sia definitiva devono passare comunque ora 10 giorni, se infatti il 25% del Parlamento lo richiede, ha detto ancora La Russa, è possibile che questa sia impugnata. Le accuse indicate dal 5 Stelle non le condividiamo, ha spiegato intanto Sisto di Forza Italia, non facciamo nessun asse con i 5 Stelle. Di coraggio da conigli parla allora Grillo verso i rappresentanti proprio di Forza Italia. Napolitano è oggi il problema principale di questo paese, dice il leader 5 Stelle, prima viene rimosso, prima l'Italia potrà ripartire. Tensione infine, Simone, tra Palazzo Grazioli e Quirinale ai massimi dopo la ricostruzione di quanto avvenne nell'estate del 2011 con la staffetta tra Berlusconi e Monti. Brunetta parla di un fatto gravissimo. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. E adesso veniamo alla scomparsa di un'attrice molto famosa, quando era bambina, molti molti anni fa, Shirley Temple. Bravissima eppure infantile, leziosa eppure saggia, Shirley Temple era la perfetta diva bambina. I've thrown away my toys. Figlia ovviamente di una ballerina mancata, aveva iniziato a partecipare ai provini hollywoodiani a 3 anni, il primo film a 4. Da lì decine di pellicole anche con grandi star, diventando l'attrice più pagata di Hollywood, vincendo anche un Oscar giovanile creato appositamente per lei. Erano gli anni più bui della Grande Depressione. I suoi film infondevano negli americani speranza e ottimismo, al punto che il presidente Roosevelt in persona proclamò: finché il nostro paese avrà Shirley Temple, noi staremo bene. Certo, c'erano voci critiche le accuse di propagandare un'immagine di purezza razziale o di lolitismo ante litteram. Negli anni 40 il declino cinematografico. Diventerà una donna politica candidandosi al Congresso degli Stati Uniti per il Partito Repubblicano nel 67, dedicandosi poi alla carriera diplomatica, rappresentante degli Stati Uniti presso l'ONU dal 69 al 70, poi ambasciatore in Ghana e Cecoslovacchia. Sarà anche il primo personaggio pubblico a parlare apertamente dell'aver avuto un tumore al seno. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso a Sochi. Sochi 2014. Maria Pia Valls Beltran, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti, buongiorno a tutti quanti. Menù di oggi? Immediatamente, perché c'è stata una brutta caduta questa mattina per Yuki Tsubota, la canadese che nello slopestyle femminile è arrivata comunque sesta in classifica generale. L'atleta è rimasta a terra dopo una brutta caduta sulla parte piatta della discesa ed è stata soccorsa dai volontari prima di essere portata al controllo medico. Nessun responso ufficiale è ancora arrivato dal comitato canadese. L'italiana Bertagna, per quanto riguarda questa gara di slopestyle, ha finito ottava. Altri italiani oggi non per lo sci di fondo, con lo sprint femminile dove passano Gaia Buric e Greta Laurent, che sono partite proprio in questi minuti nella gara dei quarti di finale, favorite sempre comunque le norvegesi Marit Bjørgen e Maikan Falla. Per gli uomini c'è dai quarti di finale, sempre nello sprint dello sci di fondo, Federico Pellegrini, terzo nelle qualifiche, e passa anche David Hofer. Alle ore 16 Oberhofer e Wierer partono rispettivamente quarta e sesta nel biathlon 10 km a inseguimento, dopo la buona prova di due giorni fa nei 12 km e mezzo. Nel programma breve del pattinaggio, due coppie italiane sono in gara oggi pomeriggio, saremo presenti per seguirle. Alle 18:30 competizione storica per i giochi olimpici invernali, per la prima volta appunto nella storia le donne si daranno battaglia nel salto con gli sci, disciplina trampolino normale individuale. Da Sochi è tutto. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Un quarto degli italiani vive una condizione di disagio economico, scrive l'Istat nel rapporto Noi Italia. Pressione fiscale a livelli svedesi, ultimi in Europa per competitività di costo delle imprese. Prima reazione dell'Europa al referendum svizzero: è stato bloccato il negoziato sull'elettricità con la Confederazione Elvetica. Blitz della polizia e dell'FBI contro l'Andrangheta. A New York arrestati anche uomini dei Gambino. In Calabria il boss di Gioiosa Ionica. Attaccata, insultata, derisa sul social network Ask FM, si toglie la vita una ragazza di 14 anni a Padova. Come previsto è stata bocciata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica del Movimento 5 Stelle. Renzi dice PD leale al governo, ma la batteria della legislatura è scarica. Cambiarla o ricaricarla. Adesso parliamo di Marco Pantani. 10 anni fa, il 14 febbraio del 2004, moriva il corridore più popolare sicuramente in Italia del ciclismo moderno. Morto per overdose di cocaina, Pantani venne trovato senza vita in un residence di Rimini, lontano da tutti, dai compagni, dalla famiglia, da chiunque lo cercasse. Lui, insuperabile in salita, non seppe resistere alla discesa più dura, quella che tra sospensioni e sospetti lo ha allontanato dal ciclismo. Ancora adesso Pantani divide, per molti un mito, per altri il simbolo di un ciclismo drogato dal doping, che non è ancora uscito dal tunnel. Sulla sua figura Dario Ceccarelli ha intervistato Sandro Donati, consulente della WADA, l'autorità mondiale del doping, preparatore atletico e autore del libro Lo sport del doping. Nel mio giudizio da tecnico, da allenatore, allora dico che chiaramente Pantani era un soggetto dotato come scalatore, ecco, e quindi avrebbe potuto ottenere i suoi buoni risultati. Dopodiché è altrettanto evidente che la sua carriera è stata gestita presso l'Università di Ferrara, presso l'Istituto di Biochimica del professor Conconi e dei suoi assistenti, con somministrazioni di doping massicce. Ed è altrettanto chiaro che tutta la sua squadra faceva uso di questo e tante altre squadre avversarie. Allora a questo punto è evidente che il giudizio su di lui non può essere disgiunto dall'ambiente. Pantani però è morto di overdose di cocaina. Si dice che ci sia una correlazione tra un abuso del doping e poi il passaggio invece a droghe tipo la cocaina o di altro genere. Lei conferma questo? Guardi, ormai sono tutti concordi nel ritenere che l'uso sistematico dell'eritropoietina, quindi che incrementa notevolmente il numero dei globuli rossi, produca sul cervello delle situazioni che poi inducono in qualche maniera ad una dipendenza. Questi soggetti sono a rischio perché diciamo si abituano ad un sistema circostante di adulatori, di celebratori, chiaramente la maggior parte non veri, e quando poi esplodono i drammi, diciamo, magari di una positività al doping, di uno scandalo doping, si vedono il vuoto intorno e vanno in crisi totale, perché anche la loro autostima era poggiata sul consenso degli altri. Quindi diciamo che ci possono essere sia fattori legati a sostanze, sia fattori intrinseci proprio a questo vivere sopra le righe e avere intorno persone che ti fanno perdere il tuo equilibrio. E con altre interviste e altri approfondimenti torneremo a parlare di tutto questo nei prossimi giorni. Veniamo alla situazione del maltempo, in realtà lo chiamiamo maltempo per comodità, ma parliamo del rischio idrogeologico e di tutto quello che sta succedendo in questo paese. Marco Buselli, sindaco di Volterra, benvenuto. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, altri due smottamenti ieri, altri due oggi dalle vostre parti. Sì, ieri sera in nottata appunto c'è stato il crollo al viale 33 Trieste, in una strada che grazie a Dio avevo appena 24 ore prima interrotto con un'ordinanza. Stamani abbiamo avuto un altro crollo sempre adiacente a quello che è avvenuto stanotte. E in questi momenti mi dicono dell'interruzione della strada provinciale 15. Quindi la situazione è critica, continua questa allerta meteo, ha smesso di piovere fortunatamente da non molto, però ecco, stiamo monitorando la situazione e anche per l'apertura delle scuole daremo informazione nel primo pomeriggio. Grazie a Marco Buselli, sindaco di Volterra, e poi vogliamo tornare sulla situazione di Roma. Stiamo cercando di rintracciare, perché avevamo un appuntamento telefonico, Daniele Torquati, che è il presidente del 15° municipio di Roma, quello messo peggio, chissà se c'è qualcuno in ascolto che lo conosce e gli ricorda che ha un appuntamento telefonico con noi. E invece voglio salutare Rossella Palumbo, buongiorno. Buongiorno. Chi è Rossella Palumbo? È la ex moglie di Roberto Berardi. E chi è Roberto Berardi? È un imprenditore italiano di 50 anni, 49 anni, che da più di un anno è rinchiuso in una galera, in una prigione della Guinea Equatoriale. Sono state diffuse nei giorni scorsi delle foto che evidentemente è riuscito a fare lui, nelle quali documenta di torture. Signora, innanzitutto, che cosa sa dell'attuale condizione del suo ex marito? Le condizioni di Roberto sono pessime, ha ritorsioni continuamente, non viene alimentato, gli viene data pochissima acqua una volta al giorno, vive in isolamento da quasi due mesi in una cella di 3 metri per 2, dove non ha possibilità ovviamente di vedere nessuno, sta quasi sempre al buio, in uno stato dove c'è un caldo torrido. Voi come riuscite, signora, voi come riuscite ad ottenere le notizie del suo ex marito? Riusciamo ad avere notizie perché ci sono delle persone lì in Guinea che ogni tanto ci danno le nuove e qualche volta riusciamo a sentirlo per telefono, perché gli viene passato un telefonino da altre persone lì nella prigione. È a rischio della vita? Sì, in condizioni pietose, non sappiamo quanto riuscirà a resistere ancora. Siamo veramente preoccupatissimi e spaventati. Cerchiamo di avere l'attenzione delle autorità proprio perché siamo terrorizzati. Avete avuto dei contatti con la Farnesina? Sapete se si sta muovendo il Ministero degli Esteri? Purtroppo molto poco. Siamo dispiaciutissimi, soprattutto perché ieri ho letto una nota dove c'è scritto che Roberto è in isolamento perché gli hanno trovato un cellulare. sotto al letto. Ovviamente questo non è vero e soprattutto non è giusto che la Farnesina possa in qualche modo giustificare questo trattamento che viene fatto a Roberto per questo motivo. Cioè non si può giustificare, non c'è niente che possa giustificare un comportamento del genere, niente. E quindi siamo veramente preoccupati perché la Farnesina, secondo il nostro giudizio, sta facendo veramente poco. E poi insomma sono i fatti quelli che parlano. In realtà Roberto sta in condizioni disumane e soprattutto le sue condizioni peggiorano di giorno in giorno. Mi scusi Palumbo, è in prigione suo marito perché è accusato di evasione fiscale? No, lui è accusato di aver sottratto alla società dei soldi e noi abbiamo prove ovviamente che questo non è vero. Ci sono altri stati come l'America e la Francia che stanno facendo dei accertamenti su Teodorin, sull'ex socio di mio marito. E tutti sanno che Roberto è innocente. Lui addirittura è citato Teodorin che è il figlio che è il dittatore della Guinea Equatoriale, sostanzialmente, sì. Che era la persona con la quale suo marito era in affari, sì, era in società, sì. Allora, signora Palumbo, io la saluto, la ringrazio, vedremo di tenere l'attenzione sulla vicenda. Noi adesso ci fermiamo, c'è una pausa, ci ritroviamo tra un attimo per la borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Un quarto degli italiani vive in una condizione di disagio economico, scrive l'Istat nel rapporto Noi Italia. L'Unione Europea blocca il negoziato con la Svizzera alla luce del referendum sulla libera circolazione delle persone, che è una potenziale violazione degli accordi, dice Bruxelles. Notizia appena battuta dalle agenzie che riguarda la politica, l'incontro tra Napolitano e Letta c'è stato questa mattina al Quirinale. Lo scrive lo stesso Quirinale in una nota ufficiale nel quale si dice che Letta ha incontrato Napolitano per metterlo al corrente delle questioni urgenti di governo prima della partenza del capo dello Stato per Lisbona. È il momento della borsa. Borse in diretta. Borse positive oggi, FTSE MIB più 0,46%, FTSE All Share in guadagno di 0,5%, bene anche il resto d'Europa, particolarmente Francoforte più 1,34%, Parigi più 0,63%, Londra che guadagna lo 0,75%. Isabella Tasso, Radio Core Il Sole 24 Ore, bentornata, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Allora, cosa dobbiamo queste borse che vanno bene oggi? Appunto, Piazza Affari si conferma bene intonata al pari delle altre borse, si tratta ormai della quinta seduta, rialzo per i listini che sono sui massimi da 2 settimane, questo a poche ore dalla prima audizione al congresso americano del neo governatore della riserva federale Janet Yellen, che è in calendario per le 16. Dalla testimonianza della Yellen si attendono indicazioni sulla futura politica monetaria degli Stati Uniti. Naturalmente, per quanto ci riguarda poi abbiamo questo spread che scende sotto i 200 punti base, oggi tra i titoli in evidenza vedo la Popolare Emilia Romagna che guadagna un 4,7%, come mai? Sì, i titoli della Popolare Emilia Romagna sono su del 4,03%, questo dopo che l'amministratore delegato Luigi Odorici ha escluso un aumento di capitale nonché acquisizioni, questo anche se le ipotesi di stampa parlano di una stretta sulla Popolare Etruria del Lazio che fa più 1,5%. Oggi c'è il consiglio di amministrazione della Popolare Emilia Romagna che potrebbe già affrontare questo tema. I diritti della Champions League fanno bene a Mediaset, più 2,25%. Sì, Mediaset guadagna il 2%, questo dopo che si è aggiudicata i diritti TV per la Champions League. Il titolo è sostenuto anche da indiscrezioni circa un interesse della News Corp di Rupert Murdoch per le attività nella Pay TV. Altri titoli da segnalare, Isabella? Sì, allungano il passo anche le Finmeccanica, più 1,5%, le Saipem, più 1,4%, questa in attesa dei conti trimestrali che saranno diffusi a breve. Pesanti invece le Telecom, meno 2,3%, queste sono penalizzate da indiscrezioni secondo cui le offerte per la controllata brasiliana Team Brasil sono ferme a prezzi modesti. Grazie anche per oggi a Isabella Tasso di Radio Cuore, il Sole 24 Ore. Buona giornata. Buona giornata. Ritorniamo alla cronaca adesso. Una ragazza di 18 anni è morta a Palermo in seguito ad un'infezione ai polmoni. La storia l'avete sentita, un'infezione che stando ai medici sarebbe iniziata con un ascesso in bocca, poi degenerato in infezione. Sarebbe bastata una cura antibiotica per evitare il peggio, ma sembra che la ragazza non avesse seguito l'iter consigliato dai medici. Gaetana Priola, così si chiamava la 18enne, viveva in condizioni di profonda povertà nel quartiere di Brancaccio a Palermo, uno dei quartieri più esposti alla criminalità e naturalmente alla miseria. Una miseria prima di tutto culturale, racconta Domenico Delisi, l'assistente sociale che lavora nel centro fondato da padre Puglisi. Lo ha intervistato Cristina Carpinelli. Guarda, noi i servizi sociali e comunali segnalano a noi perché loro non hanno materialmente gli strumenti economici. Guardi, a me mi pervengono richieste anche per il pagamento delle ricette, quelle con le mediche dove c'è l'esenzione, che bisogna compartecipare col ticket, perché la gente non ha neanche più i 3-4 euro per pagare l'antibiotico, ma le potrei raccontare anche situazioni di abbandono scolastico dovute a persone che non possono comprare libri, quaderni. No, i diritti ci sono in Italia, però per farli valere è un po' difficile per queste famiglie. Brancaccio è uno dei tanti, ma anche un territorio tristemente noto come territorio dove la mafia è presente, dove il disagio è presente, dove le situazioni culturali, che c'è anche, non è una povertà soltanto materiale, è anche una povertà culturale, una povertà di non sapere proprio i diritti e di conseguenza i doveri. Voi avete fatto presente questa cosa più volte alle autorità comunali, nel senso anche l'idea, quella che io ho letto che voi avevate in testa anche di fare un poliambulatorio, cioè che era già un'idea di Puglisi. Sì. Guardi, per fare una scuola media, che è un'altra idea bella di Puglisi, cioè, l'istruzione ci hanno impiegato allora, in Puglisi nel 93 e nel 2000 viene inaugurata la scuola dal Presidente della Repubblica Ciampi con moglie, tanto fu un evento eccezionale. Noi per realizzare un altro sogno di Puglisi, un campetto, ma poi siamo riusciti a fare un centro proveniente sportivo, ci abbiamo impiegato 17 anni. Non so i tempi, quindi pazzesco. È una situazione pazzesca. E l'abbiamo raggiunto finalmente, Daniele Torquati, presidente del 15° municipio di Roma. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno e scusate. No, non c'è problema, non c'è problema. Eravamo in consiglio. Lo immagino. Senta Torquati, ma le sembra normale che centinaia di migliaia di cittadini che fanno riferimento al suo municipio a 10 giorni dal diluvio che ha investito la capitale del nostro paese abbiano ancora solo di fatto una strada disponibile per arrivare verso la città, per andare verso il centro? Sì, questo è vero. Noi abbiamo in questi 24-36 ore abbiamo recuperato 14 frane in tutto il municipio, quindi via dei Monti, via di Riserva Sant'Antonio, via Cesano Vecchia, via Cesano Nuova, via Fontana Secca, via dell'Isola Farnese, via della Giustiniana, due frane al chilometro 9 e al chilometro 8, via Salc, via Antegnate, via Macherio, via Riserva di Riva e via Fontana Morta. Queste sono le frane che nel giro di 24-36 ore abbiamo recuperato. Dopodiché rimangono le due frane più importanti, che sono su via Cassia, compreso tra Piazza Giochi e via Pareto, e via del Foro Italico, la tangenziale, che anche lì siamo solo riusciti ad aprire una corsia prima della partita, che poi è stata sospesa. Poi c'è la panoramica, no? E poi c'è una panoramica, però... Non mi posso prendere tutte le vie del mondo. Certo, naturalmente. Ho capito, voglio dire, non ne sto facendo solamente una responsabilità sua, però lei capisce, no, il disagio dei cittadini e anche la scarsa comprensione, no, per una questione di questo genere. la frana di via Cassia, che è quella, diciamo, che ci preoccupa di più insieme a quella della tangenziale, che è di difficile risoluzione, ha uno scivolamento di 15 metri. È una frana che è in continuo scivolamento, quindi potrebbe continuare a franare in qualsiasi momento. Soprattutto c'è la difficoltà, perché togliendo e riaprendo perlomeno in una carreggiata, perlomeno su via Cassia, togliendo il materiale che si è accumulato sotto, c'è il rischio di continuo crollo. Quindi quello che abbiamo noi in questi 10 giorni, c'è un ritorno impressionante. Quindi c'è un ritorno audio, sì, però noi la sentiamo bene, quindi faccia come... Quindi quello che abbiamo fatto insieme al Dipartimento SIMU è di focalizzare in questo momento le nostre attenzioni sia su quella di via Cassia che sulla tangenziale. Su quella di via Cassia dovrebbe arrivare il progetto, perché è un progetto che prevede sondaggi geologici e via dicendo, che devono... Ma che tempi, ci sono? Che tempi ci sono, Torquati? Per via Cassia sono 3 mesi. Per via Cassia sono tre mesi, questo è. E per la tangenziale? Dai quattro ai sei mesi per la tangenziale, e intorno ai 3 mesi per la via Cassia. E le sembra, adesso capisco che è il suo stesso partito, quindi forse magari la mette in difficoltà, però le sembra il Comune stia facendo abbastanza a questo lato o sta un po' ignorando la cosa? No, guardi, in questo caso non, io faccio il rappresentante del mio territorio. Nel caso in cui ci dovesse essere qualche rimprovero all'amministrazione comunale, non mi esimerei da questo compito, anche perché siamo stati eletti dai cittadini, e i cittadini hanno il dovere di essere rappresentati per quello. Benissimo, perfetto. Allora mi dica, fuori dai denti, se il Comune sta lavorando bene oppure no. Io in questi 10 giorni, soprattutto per le questioni di Prima Porta, ho visto la vicinanza dell'amministrazione comunale. E in questo caso, naturalmente, se non verranno rispettati i tempi di procedura e soprattutto di consegna del progetto, che non solo mette in sicurezza la viabilità ma anche il costone sopra, ovviamente lo diremo pubblicamente, però in questo caso fino ad ora ha sentito la vicinanza. Allora Torquati, la ringrazio, poi se cambiasse idea su questo fronte ci può contattare. Grazie, salve, buona giornata. Arrivederci. Chiudiamo questa parte con il cinema, perché è stato presentato ieri alla stampa il film Monuments Man. Sentiamo. Non sarà un capolavoro e forse nemmeno un film da record al botteghino, ma con la sua nuova pellicola George Clooney, decidendo di coprodurre e dirigere Monuments Man, anche questa volta si è preso un bel rischio. Dopo aver presentato il film fuori concorso al Festival del Cinema di Berlino, ieri, insolitamente a Milano, uno dei più amati sex symbol di Hollywood ha tenuto un'affollata conferenza stampa accompagnato dal cast stellare della pellicola, da Matt Damon a Bill Murray, da Jean Dujardin a John Goodman. Poi, in serata, anteprima nazionale a Luci Cinemas di Pioltello, con tanto di red carpet e migliaia di fan in delirio. In mattinata anche una visita al Cenacolo Vinciano, con tanto di foto di gruppo che da regolamento sarebbe vietata a chiunque, ma non al potente Clooney. Monuments Man, adattamento dell'omonimo libro di Robert Hetzel, che sarà nelle sale italiane da giovedì 13 febbraio, racconta la storia incredibile ma vera di un gruppo di storici dell'arte che durante la Seconda Guerra Mondiale, su mandato di Roosevelt, rischiarono la loro vita in giro per l'Europa a caccia dei tesori trafugati dai nazisti, che rischiavano di essere distrutti. Una storia che pochi conoscevano e che ora, grazie al libro di Hetzel, ma soprattutto dopo il film di Clooney, tutti conosceremo. Non il solito film cinico e amaro, ha detto il fascinoso George, ma un film onesto che vuole raccontare fiducia e speranza. E l'intento gli è decisamente riuscito. E se ieri c'era Hitler, ha avvertito Clooney, oggi è la crisi a mettere a rischio l'arte e la cultura. Well, I think whenever a country has economic problems, the first thing that suffers is art. Ogni paese ha problemi economici e la prima a soffrirne è l'arte. Sarà una battaglia continua, per questo l'arte va difesa ad ogni costo, ha concluso George Clooney. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Incontro tra Letta e Napolitano al Quirinale. Il Presidente del Consiglio ha annunciato che presenterà a breve il patto di coalizione, ma ci sono appena arrivate le dichiarazioni di Letta, dunque sentiamole. Guardi, io lavoro con l'occhio puntato agli obiettivi delle cose da raggiungere. Aggiungo anche che nelle prossime ore presenterò il patto di coalizione, la mia proposta di patto di coalizione ai partiti che sostengono il governo. Proporrò un patto di coalizione centrato, molto centrato sul tema del rilancio economico, quindi sono convinto che tutto questo va esattamente nella direzione del successo di una opportunità come quella dell'Expo, alla quale non smetto di ripetere mi sento legato, ma sento soprattutto che il Paese debba essere profondamente legato, quindi credo che si vada nella direzione giusta. È il momento di Mario Platero e di America 24. Ed è tutto per Effetto Giorno, un ringraziamento a Gianmarco Ferronato in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre e tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo tra un attimo col giornale radio. Effetto Giorno torna domani alle 13:00.